Abbiamo tenuto la sigla on Broadway un po' più lunga perché abbiamo l'appuntamento e quindi il collegamento che è diventato doppio per lo spettacolo di domenica 17 marzo. Abbiamo presentato sabato, ora la domenica ITC Teatro per le ore 17, i Macbeth, traduzione e riduzione del Macbeth di Shakespeare, Francesco Nicolini, la drammaturgia è di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, oltre che una collaborazione molto più estesa di cui parleremo con i due protagonisti che ho appena citato. Quindi buongiorno Enzo e buongiorno Stefano, ci siete entrambi da quel che ho capito. Sì. Buongiorno. Buongiorno e grazie per questa intervista doppia. Allora, i Macbeth, appuntamento anche esteso perché poi seguirà alle ore 18:30 all'ITC Lab l'incontro aperitivo con contenuti di cui appunto vi daremo appuntamento per i giovani. Allora, siamo in diretta, intanto ve lo ricordo, per cui insomma ecco, non facciamo dei fuori onda, restiamo molto attenti. Cominciamo da Enzo Vetrano. Per quanto riguarda lo spettacolo i Macbeth e questo riportare sul palcoscenico un grande capolavoro, insomma, come è stata questa sostituzione e di che cosa tra l'altro parlerà anche? Ci puoi iniziare a svelare questi contenuti? Allora, pronto, mi senti? Ah, non vi sento più. Allora, tornando alla diretta, io lo so quando c'è l'intervista che improvvisamente mi diventa doppia tra viva voce, tra passo la diretta a te, no, inizio io, insomma, questi equivoci possono certamente capitare. Facciamo che mettiamo un po' di musica, riproviamo il collegamento e tenteremo di dare anticipazione anche per lo spettacolo ITC Teatro. From the pen of Key, the lead scribe for the Pharaohs of the mighty four corners of 39th Street. Pare che abbiamo accordato la conversazione. Allora, rifacciamo la domanda, la traduzione e l'ispirazione per quanto riguarda questo grande classico, come viene riportato e come viene anche rielaborato per il lavoro di domenica all'ITC di San Lazzaro. Prego. Allora, insieme a Francesco Nicolini e anche agli attori che facevano lo spettacolo abbiamo fatto questa diciamo riduzione del Macbeth di Shakespeare, inserendo insieme a parte del testo del Macbeth testimonianze, racconti, effettivamente confessioni realmente avvenuti di omicidi avvenuti negli ultimi anni, e questo, e abbiamo accostato praticamente l'oggi al testo di Shakespeare, e devo dire che è venuta fuori una drammaturgia che a noi sembra, e anche pubblico, però lo sto vedendo, molto più forte, forse più violenta, parla della violenza in una maniera che la gente sente molto vicina, riconosce questi casi che sono dei casi noti al pubblico, e quelle parole si inseriscono bene dentro questo, all'interno del testo di Shakespeare, e anche il testo shakespeariano diventa più accostata a queste parole, diventa più forte, perché è un po' un'operazione che faceva Shakespeare ai tempi, perché era così popolare, proprio perché parlava di cronaca, la sì. Gente conosceva i regnanti di cui parlava, erano regnanti di 50 anni prima, quindi sapevano la storia, quindi li sentiva molto molto vicini. Adesso forse distanzianti di tanti anni le parole crudeli della Lady, di Macbeth, diventano forse un po' troppo letterarie. Allora questo accostamento fa diventare anche quelle parole terribili come lo erano ai tempi. Certo, poi del resto il classico ha il tutti i tempi che lo rende sempre eterno. Allora adesso chiedo invece a Stefano, che è qua con noi, sì, a quanto pare, per quanto riguarda il palcoscenico, chi ci sarà, ecco, e come sarà allestito. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Voi lo sapete che è un orario che per gli attori normalmente si passa a letto, si dorme fino a tardi. Lo so. Me ne rendo conto, lo so benissimo. E vi ringrazio anche per questo. No, vabbè, era giusto per dire che forse certi inciampi in cui ci incorriamo dipendono proprio dall'ora per noi. Così. È una bella prova teatrale anche di prima mattina. Esatto. Allora, parliamo del palcoscenico in questo caso per, sì, Macbeth. Come ha detto Enzo, c'è stato questo accostamento tra gli omicidi di cui parla Shakespeare, degli omicidi di ieri, di secoli fa, e quelli di oggi, come ad avvicinare più che i gesti, i pensieri di questi uomini, di queste donne che come istinto omicida hanno quello di sopprimere l'altro per risolvere i propri problemi, e nel testo di Shakespeare lo fanno a livello appunto di regnanti e di altri personaggi. Qua ci sono quattro assassini che il pubblico riconosce perché fanno parte della cronaca di oggi, che si accostano, che si avvicinano in maniera straordinaria agli uomini di cui parla Shakespeare. C'è un'esaltazione di questi sentimenti che viene che balza agli occhi proprio perché la gente riconosce le persone. È una cosa che avviene nel tempo, chiaramente. All'inizio il pubblico si trova di fronte a questi quattro personaggi che sono come se fossero in cella, è come se pensando tra sé se ripetono queste parole, che sono poi le parole di Shakespeare. E dopo un po' si cominciano a riconoscere nei racconti che fanno, nelle confessioni che fanno, si cominciano a riconoscere chi sono. E allora il parallelo diventa molto più forte, colpisce di più. Il parallelismo è più intenso, certo. Certo. Intanto allora, domenica 17 marzo, ovviamente 2024, alle ore 17, i Macbeth, traduzione e riduzione dal Macbeth di Shakespeare, drammaturgia Enzo Vetrano, Stefano Randisi, poi diverse collaborazioni anche per quanto riguarda questa rappresentazione. A seguire alle 18.30 all'ITC Lab si tiene un incontro, sarà un incontro anche con conversazione letterario con Marcello Fois e gruppi di ragazze tra 15 e 25 anni. Anche questo insomma è una realtà da segnalare per quanto riguarda l'attualità, la classicità, il modo di portare l'attenzione a un pubblico più giovane. E cosa vi aspettate da questo pubblico? Noi siamo molto curiosi perché per ora quello che succede è che il pubblico alla fine esplode in un applauso molto partecipato. Quello che ci interessa è sentire quanto loro hanno messo insieme le due cose e quanto dalla classicità appunto delle parole di Shakespeare riescono a raccogliere una lezione per i giorni d'oggi, un esempio dei giorni d'oggi. Ci incuriosisce, incuriosiranno le domande che questi ragazzi faranno e il modo in cui possiamo raccontare insieme l'oggi. Sì, indubbiamente è un motivo di dialogo che va oltre il percorso temporale con la assolutamente, conversazione parla dell'attualità. Del luogo, sì, dei sentimenti del luogo. e sarà domenica 17 marzo alle ore 17 ITC Teatro di San Lazzaro, via delle Rimembranze 26, alle 17 però alle 18.30 l'ITC Lab, appunto questo incontro di cui abbiamo appena dato anticipazione. Io vi ringrazio tantissimo, che adesso è il momento di prendere un caffè, anzi un caffè doppio. Sì, adesso faremo colazione. Va bene, io vi ringrazio tantissimo e a presto, ok? Ci vediamo domenica. Buona giornata, ci vediamo domenica. Ciao. Perhaps a bit deranged, go for this emotion. Oh yeah, yeah. Feeling that loneliness again, through and through. Just getting bored with the way things was going. Now we're standing in the rain, instead of basking in the flame of a blind ass love. Oh yeah, babe. Then you appear like an apparition in my heart, and that's life. I was heavy on the street, but now I feel so right with you, and I could feel this heat. Baby, now I see the light within our lives. So near and yet so far, I look around and wonder where you are and where we are going. There. But mostly it's the journey I'm anticipating, and that's real. I'll never forget your heart, it's right next to my heart whenever I'm flowing. And I know you know that someday you will see that we never stop growing, we never stop growing. Don't stop. I was heavy on the street. I was heavy on the street now, mama. But now I feel so right with you. Feel so right in this life with you. And I could feel this heat. I could feel the fire. Baby, now I see the light. Yeah. Within our lives. I got a lot to do. And I ain't gonna stop with you. My love. Sipping whiskey by the box, spitting books like a dove. E godetevela un po' la prima mattina, il momento più bello su 24 ore. Come si fa a non vivere la prima mattina, eh? Io ho sempre scelto di essere mattiniero naturalmente, poi, ma sin da ragazzo io penso di non aver mai dormito fino alle 9, perché evidentemente se sono arrivato alle 9 per motivi di sonno è perché la mia salute non era esattamente al 100%, ma come si fa? Ma dai, ma la mattina è il momento più bello. Baby didn't know I could go for real. Real live in your private zone, styles like Lionel Hampton on your Bible. Guarda, basta mettere la testa fuori dalla finestra, guarda. Voi mettete la testa fuori dalla finestra e mi date la risposta, guarda. And I could feel this heat. Baby, now I see the E comunque ribadisco l'appuntamento a ITC Teatro, che ovviamente immagino, uno magari, anzi ringrazio per la disponibilità e la possibilità di anticipazione con i protagonisti. È domenica 17 marzo alle ore 17, fate anche un po' di pennichella prima e magari dopo pranzo, perché poi vi aspetta l'aperitivo alle 18.30 all'ITC Lab, l'incontro con aperitivo, il lavoro shakespeariano e Macbeth con traduzione e riduzione del capolavoro shakespeariano. Shakespeareano, Francesco Nicolini, alla regia, la drammaturgia, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che abbiamo avuto in diretta poc'anzi. Io mi congedo augurandovi una buona mattinata, una buona giornata. È venerdì, è il giorno più bello della settimana, vigilia di weekend, ci aspetta il weekend. Wanna hear you say, need to hold you close. Ecco, brava Sabina, che mi hai mandato la foto di uno splendido panorama collinare. Buongiorno William, ho messo la testa fuori dalla finestra e corrisponde con un grande abbraccio a distanza. Grazie Sabina, una buona giornata e un buon weekend. Sentite che bella musica, tra l'altro, che va a conclusione alla prima colazione in diretta per dare appuntamento a lunedì con i magazine. Puntuali alle ore 7 vi aspetto per iniziare assieme la settimana. A breve l'edipo enciclopedico Liberi Dentro, dopodiché la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Ci ritroviamo alle 11.30 per il Jazz Live dal Torrione di Ferrara, l'appuntamento di lunedì con il Paradiso Jazz. Quindi ci sarà weekend e lunedì e la presentazione di un lavoro che è arrivato in redazione e noi lo portiamo in frequenza, una nuova pubblicazione discografica. Ecco il menù del Jazz Live, l'aperitivo in jazz, ecco, definiamolo così, dai. Una buona giornata, un grazie per l'ascolto e un caloroso abbraccio, servo vostro William Piana, a lunedì Breakfast Club per le super mattiniere e i super mattinieri. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon weekend, ciao!